Oh, senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Devo vedere un po', devo cercare di avvisare qualcuno, dire per cortesia chiudete le assimmertose, togliere un po' di merda dall'Italia, chiudono sta trasmissione del cazzo, tu e quell'altro frocio lì, quel nano del cazzo. Questi demo che fanno la musica rap, trap, trup, trap, una lance aperta, che cazzo ti fanno romare di coach, prima la musica era melodia, musica rap, trap, trup, trap, rap, rap, rap. Possiamo cominciare la trasmissione, grazie. Giro in ma, gira a caso, gira cose, Ruben Sosa, bruciamo fiori, non rose cose, mamma stai tranquilla, mamma sosa, hey. Perda fre, nuova a me, hey. Sogni me. E che cos'è? Nell'età, fazzole. Mai pia, fai una se, blow job, nuova scuola, mai una gio, mai una giolla, sempre al bar, hola. La zanzara. Mischia ben, basta il shank, fai una se, taglia le, giro a pie, basta il fra, giro il ma, 5 col fra che già giro a pie, tipo quel tipo di tipa fra, tipo col tipo di tipa fra, ti pario contra fra, tipo quel tipo che è il tipo di tipo da tipa del tipo fra. 2020, anno bisesto, anno funesto, porta male, perché in 3 mesi io non lo so se ci arrivo, tra 12 mesi, non so se ci... Eccola qua, eccola. Saluta un po' sta manica dei froci. Dì che sono 4 froci questi. Siete 4 froci? Eccoli, ma venite a trovarla sta ragazza, no? Venite a trovarmi, no? Che grappolo dei froci. Cazzo, che c'è esso? Non avevo mai visto il muso, perché non si parla di faccia, si parla di muso di spurgottardo. Cazzo, ma che brutto c'è esso? Il solito stronzetto che se becco chi è, vado lì dalle Monterosa di persona in auto e lo prendo a schiaffi. Sono deficiente. Ma scusa, ma ti devi sempre mettere vicino dei coglioni, Parenzo, Gottardo, ma che cazzo fai, Cruciani? Te, Cruciani, sei proprio figlio di puttana. No, è possibilissimo. Caro Parenzo, ti parlo come al solito, ormai dalla zona rossa, forse faranno la Lombardia, zona rossa, ti parlo dal bunker di Monterosa, oggi mi hanno costretto a utilizzare un preservativo personale, preservativo intendo che cosa? Non i preservativi che si usano per fare il sesso, ma i copri microfono, eccolo qui, lo metto, anch'io ce l'ho. Lo mettono, se no sentirete un po' di rumore, ma devo mettere, eccolo qua, sentite il rumore di questo preservativo con i guanti naturalmente, perché lo posso toccare solamente con i guanti. Perché io anche, come vedete, ho messo questo non alluminio, questo cielo fa. Ma quello l'hai messo da solo questo? Ma che tocchi? Che sente rumore? Cosa tocchi? Cosa tocchi? Sono i danni del coronavirus, vedi? Qui a Milano, giù. Qui a Milano, Alberto Gottardo, che è venuto dal Veneto, incredibile. E non ho messo un cazzo sul cappellotto che ho davanti. Sei già malato? Cosa me ne frega? Perché tu sei già malato? Ma perché io devo aver paura dei virus adesso? Non ho paura nemmeno del virus dell'odio, figurarsi del coronavirus. Però se tu leccassi quella roba lì, non lo fare adesso. Se tu leccassi quel microfono che hai davanti e che magari è infettato, potresti infettarti in teoria. Se avessi fatto lo stesso ragionamento quando avevo tra i 20 e i 30 anni, allora non avrei dovuto leccare nessuna vagina, per esempio. Per lo stesso ragionamento, più pericoloso da un punto di vista batterico, è più pericoloso leccare una figa dopo 5 ore di pista in discoteca. No, pensa, questa ballava 5 ore in discoteca e poi tu ci affondavi tutta la faccia. Che era schiumoso. Era schiumosa come i cavalli del Palio dopo due giri di Piazza del Campo. Ma dai, ma che roba è? Era più pericoloso quello. Era più pericoloso. Io ne ho leccate alcune in gioventù, ne ho leccate alcune di cui non conoscevo neanche la cosa. Ma cosa c'entra? Era pericoloso, avrei potuto prendermi qualsiasi cosa. Ma cosa c'entra col coronavirus? Non avevo paura allora, non devo avere paura nemmeno adesso. 116 malati, 197 i morti. Bene, di questi 197 under 60 non ce n'è neanche uno. Allora, è vero. Quindi io ho 43 anni, non morirò mai di coronavirus. Statisticamente, di cosa devo avere paura? Ma cosa vuol dire statisticamente? Ma di cosa devo avere paura? Zitti. Allora, oggi è venuta fuori una notizia che i morti in Italia hanno minimo, credo, la media di 81 anni sì. E con almeno due o tre patologie. E allora, dai, io ne ho 43, che cazzo devo avere paura? Complicazione. Devi avere più paura. Io e te, che abbiamo la stessa età, Parenzo, dobbiamo avere più paura del colesterolo, non del coronavirus. Virus. Non dare messaggi idioti alla gente, no, che poi ci crede. Abbiamo 43 anni, 44 anni. Si seguono le prescrizioni che il governo ha dato, giusto, su suggerimento dei medici, che a differenza tua sono persone esperte. Allora, dalla trasmissione ieri di Formigli, a un certo punto Formigli, intervistando l'infettivologo Galli o il virologo Galli, adesso impazzano ovunque virologi e infettivologi, e secondo la teoria curiosa di Gottardo, diciamo che vanno in televisione, è la loro ora, diciamo il momento migliore, è il momento del leone. Ma meno male che gli esperti vanno a fare chiarezza rispetto alle stupidaggini. Senti Formigli sul fatto che la Cina hanno il vantaggio di essere una dittatura, un vantaggio non da poco, sì, nel senso del contenimento. Vi ricordo che in una situazione che il 26 di gennaio in Wuhan, come numero di casi, era simile alla nostra, in Cina erano state già prese misure assai più drastiche delle nostre. Certo, diciamo che lì hanno il vantaggio della dittatura, che insomma non è un vantaggio da poco. Giordano impazzito. Beh, è ironico, nel senso che quelle misure le possono fare, dire che è un vantaggio non da poco. Hanno fatto anche cose buone. Imporre, ma non era in quel senso lì, era nell'imporre queste norme molto restrittive che da noi infatti non vengono rispettate. Guarda Gottardo che si muove dal Veneto a Milano come un coglione. Non tutta la dittatura viene per nuocere. Ma no, come dici, guarda Gottardo che si muove dal Veneto a Milano come un coglione. Tossendo fortissimo in treno è un esperimento sociale. Ma fai male agli altri. No, tossisci di far male agli altri, non te stesso. Non litigate tra di voi. Improvvisamente la gente si alza, cioè sei irresponsabile per gli altri. Zitto un attimo. Mario Giordano impazzisce sulla notizia che il primo caso, tutto da confermare, che il primo caso di contagio è avvenuto in Germania. È passata sotto silenzio. Secondo me la notizia è che il primo caso di contagio del coronavirus, cioè la porta con cui il coronavirus è entrato in Europa, sarebbe stata la Germania, ha avuto troppa poca visibilità e soprattutto ha scatenato troppa poca indignazione. La Germania, secondo quanto risulta dagli studi scientifici, avrebbe saputo tutto dalla fine di gennaio, ma ha taciuto, non ha detto nulla. Giordano contro la Germania, caro Parenzo. Adesso vedrai nella prossima puntata di Fuori dal Coro, porterà, non lo so, una grande cartina della Germania. Questo è un momento in cui quel tipo di trasmissioni andrebbero chiuse, ad esempio. No, me. Adesso. Sì, con decreto del governo. No. Con decreto. Cioè le trasmissioni che creano casino, chiuse. Anche per questo, decreto del anche questo. Soprattutto per decreto del governo. Cioè, quali trasmissioni chiuderesti? Quelle che... Questa perché vengono diffuse stronzate, vedi quelle di Gottardo. Questo sicuramente. No, dico sul serio. Poi Giordano dopo. Giordano probabilmente Del Debbio al limite perché si occupa di altri temi. Ho visto ieri che si è occupato di quello di Napoli. È la prima volta che in Italia succede una catastrofe e non sei in onda con Telese. Secondo me è l'invidia del pene, eh? No, quindi vuol dire che non sono io che porto sfiga. Questo è il tema. Questa è la controprova, diciamo. Esatto. Questo è un comportamento chiaramente vergognoso e scorretto, che non può non suscitare un'indignazione in un paese che è negli ultimi settimane, lo stiamo vedendo, sotto attacco da parte di tutto il mondo. Basti pensare alla vergognosa cartina della CNN, al vergognoso video della pizza dei francesi, basta pensare ai innumerevoli collegamenti degli inviati stranieri con la mascherina davanti a Codogno, che hanno fatto passare l'Italia come la nuova Chernobyl. Ah, perché invece la mascherina di Fontana non ha fatto passare come la nuova Chernobyl alla Lombardia. Zaia che parla dei cinesi che mangiano i topi vivi, invece ha fatto bene, no? Al Veneto, all'economia italiana. Bisognerebbe informare Mario Giordano, che Libero, un quotidiano credo che a lui piace, perché siamo alla verità, allora, dell'area della destra, dice non sparirà con il caldo, mazzata dell'OMS, virus, preparatevi a un'estate da incubo. Quella è la notizia. Pericolo, reinfezione, nessuna certezza. Cioè bisognerebbe informare Mario Giordano che l'Italia è un problema oggi oggettivamente. Allora fermi tutti, Meluzzi, se avessimo investito più in rianimazione e meno in barconi. Meluzzi è un altro che ad esempio per decreto andrebbe zittito. Non dovrebbe parlare per decreto. Ma non puoi dire così, dai, per decreto. Cioè, allora, nell'ordine, Parenzo vorrebbe zittire in questo periodo i confronti. No. Hai detto Dico tu chiudere le trasmissioni. Per decreto. Scusami, il decreto è tecnicamente una misura di urgenza. Appunto. Tant'è che poi deve essere come tu ben sai convertito. Vabbè, lascia in legge. Perdere i dettagli. No, spiego il dettaglio, se no sembra un provvedimento regio. No, tu vuoi zittire trasmissioni e persino per decreto, opinionisti, dai. Per decreto andrebbero chiuse le trasmissioni che creano solo confusione e false informazioni. Dunque, Meluzzi non andrebbe più invitato, zittito. Per decreto, quindi una durata limitata, perché dopo quanti giorni si converte in legge decreto? Lo sa chiunque abbia studiato un minimo di diritto pubblico. Ma che c'entra? Poi resta però se viene convertito. No, se viene convertito, ma io non chiedo di convertirlo. Chiedo di fare un decreto, però. Dovremmo riflettere su un dato anche organizzativo. Se noi avessimo investito meno in barconi e più in rianimazioni, probabilmente oggi non saremmo già in tilt. Più rianimazioni, meno barconi. È una cosa vergognosa. L'assessore è un uomo vergognoso. Ma perché proprio. Dice una cosa? Perché dice è un uomo vergognoso. Meno soldi agli immigrati, più soldi per le emergenze italiane. Ma non c'entra niente. Sono tante cose che si dicono. Perché non la può dire? È una sua opinione, una sua idea. C'è una gravissima epidemia in Italia, l'epidemia di puttanate. Io ne sento tutti i giorni. Allora Gallera, che è un assessore, ecco un altro. Senti l'epidemia alla delle puttanate. Aspetta, senti l'epidemia. Fermo. Dice non venite a fare shopping a Milano. No, ora io dico affollati, sì, però dico non bisogna per forza. Cioè, evitate la domenica di andare a fare lo struccio e a San Babila. Non è che ogni giorno. Allora chiudiamo tutto. Allora, ma a questo non punto chiudiamo tutto. Usare il buon senso. Esatto, chiudi tutto. Ma non siamo isterici, bisogna usare il buon senso, tutto qua. Si sa che nei luoghi affollati è meglio non andare. Ma perché ti stai pulendo le mani di continuo? Io me le pulisco. Di continuo ti stai pulendo le mani. Perché io avendo tre bambini a casa. Spieghiamo ai nostri ascoltatori. Spieghiamo però, Parenzo, spieghiamo ai nostri ascoltatori. Perché ti stai pulendo le mani di continuo, dice Cruciani guardando la webcam, mentre indossa dei guanti da chirurgo? Perché anche tu, perché hai i guanti da chirurgo? Perché li ho lasciati qui perché dovevo cambiare questa minchia di preservativo qua, di microfono. Li ho lasciati per adesso, se no me li dovrei togliere. Io uso questo prodotto che è simile a quello che viene chiamato a mucchina, ma non è questo. Vabbè, Gallera, sentiamo l'assessore Gallera. E seguo dai. Le prescrizioni. Assessore della Lombardia Gallera, dai. E anche di evitare gli spostamenti, secondo lei, è una cosa utile da dire? Guardi, questo in generale l'ha detto anche Pregliasco e lo dico noi della Lombardia, ma forse è un invito complessivamente al paese, al di là evidentemente delle attività lavorative, fino a che non saremo costretti, speriamo di non arrivarci mai a dover interrompere queste. Oggi dobbiamo rendere rarefatta la nostra vita sociale. Quindi se uno deve venire a fare lo shopping a Milano in corso di Tre Emanuele, non ci venga, voglio dire. Sì, però amico mio, buon senso, sì, mi pare, non è va che ha benissimo detto, no, anche perché va contro i suoi interessi, a parte che scusami ha detto, sì, a parte che è ha la detto, sua regione, non è che lui, certo, fa un danno alla regione, a parte viva che, Gallera, persona responsabile, a parte, scusa, che ha detto una cosa che uno non è che dovrebbe accennare, forse saremo costretti a chiudere tutte le attività, non è che tu, no, puoi dire una cosa così, forse saremo, speriamo, il ragionamento è diverso, per evitare questa cosa, sì, qui ho capito, per arrivarci evitiamo che il contagio si espanda. Lorenzo, porta rispetto a Mussolini, bastardo, porta rispetto al Duce. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Gottardo, dove sei Gottardo? Dove sei che eccomi. La settimana scorsa continuavi a dire che erano degli stronzi quelli che pensavano che il virus fosse pericoloso? Dove sei? Dove ti sei nascosto adesso? Non, forse non hai la faccia per dire quello che pensi adesso? Eccomi qua. Hai visto morti e ammalati giovani che ci sono? Nessuno. Bravo, continua a star nascosto, va, che fai la figura migliore della tua vita in questo modo. Allora andiamo a Napoli, poi abbiamo tutto il tempo, Gottardo, abbiamo tutto il tempo. Morti giovani zero in Italia. No, morti giovani effettivamente zero. E allora? Il padre del ragazzo ucciso. C'è qualcuno in terapia intensiva. Il padre del ragazzo ucciso. Oggi è andato a fare una comparsata, passerella, comunque presenza, diciamo presenza per non essere polemici per forza, una presenza davanti alla caserma dei carabinieri dove hanno sparato dei colpi qualche giorno fa. Sentiamo quello che ha detto. A un certo punto dice: sono qui per aiutare tutti i ragazzi di Napoli. Per aiutare tutti i ragazzi di Napoli. È venuto fuori. Per carità, sarà spontaneo. Sicuramente sarà spontanea questa cosa qui. Dopo l'uccisione del figlio, magari si è rinsabito. Magari vuole aiutare adesso tutti i ragazzi di Napoli. Porterò la memoria di un buon mio figlio a salvare i ragazzi di Napoli, qualsiasi ragazzi che vuole intraprendere una strada e vuole qualche un aiuto da me, mi può contattare. Può contattare, perché io vivo solo per salvarsi qualcuno, perché quello che hanno fatto al figlio non l'hanno fatto. Le voci dal quartiere dove viveva il ragazzo, un ragazzo morto a 15 anni, anch'io avrei distrutto l'ospedale. Ora spiegatemi voi che cosa significa distruggere l'ospedale per la morte di uno, cosa c'entrano quelli dell'ospedale. Comunque questi la pensano così, che ti devo dire? Questo l'avrei fatto pure io, devo dire la verità, in quel momento, che poi è stata una cosa molto grave, questo poi si sa, però comunque è un ragazzo di 15 anni. È un comportamento che possono avere qualsiasi adolescente di 15 anni, no. Che magari perde il controllo e fa delle ragazzate. Voglio segnalare a questo signore, che non ha né nome né cognome, che non è che qualsiasi ragazzo di 15 anni in Italia va in giro con una pistola, una Beretta 92. Non qualsiasi ragazzo, sia chiaro, perché può succedere a qualsiasi ragazzo di 15 anni, no! No, non può succedere. Mia figlia, ma non voglio citare mia figlia, ma lo dico lo stesso. Non la voglio citare, ma la cito lo stesso. Non va in giro, spero, con una pistola calibro 92, una Beretta 92. Certo. Non va in giro con una Beretta 92. I tuoi figli non vanno in giro a Siena, no. Tua figlia con una Beretta 92-42. Non va. Ma nel 99% dei casi in Italia un ragazzino di 15 anni non va lì. Non lo voglio dire, ma lo dico lo stesso. Dunque, non è che può capitare a tutti. Capita in ambienti criminali. La cosa che mi fa impazzire di Vincenzo Russo, a parte la discussione, poi manderemo in onda, che abbiamo avuto ancora una volta io e lui ieri da Del Debbio, è un'altra cosa. Cioè, queste persone qui, chissà perché, scoprono, almeno a parole, poi bisogna vedere nei fatti, perché poi magari è tutta una strategia comunicativa, il valore della legalità, la legge, i carabinieri, e allora decide la legge, lo decide il tribunale, vedremo in tribunale, eccetera. Scoprono il valore della legalità solamente quando succedono delle tragedie come quella dell'uccisione di un figlio o della morte di un figlio. Cioè solamente in quel momento scoprono a parole il valore, i carabinieri e la legalità e i conti correnti a favore dell'ospedale. Chissà perché solamente in quel momento lì, come mai? L'unica trasmissione che manda in onda gli audio dei conduttori in altre trasmissioni, soprattutto televisive, anzi solo televisive. Solo televisive. Ci può stare che uno rimane ammazzato, che uno rimane ucciso, lo sai benissimo, dunque non è una ragazzata. Tutto qua, Vincenzo. Prego, Vincenzo, vuol dire qualcosa? Sì, a Cruciani non lo saluto e non lo rispondo perché Cruciani non ha l'onore più di parlare con me, gliel'ho detto ieri in radio. Certo. Vabbè, ma qui siamo qui in un altro contesto, Vincenzo. Siamo in un altro contesto in cui ho fatto dello stesso. Non rispondo. Vabbè, non rispondere. Rispondi a. Se non risponde. Non ti rispondo. Rispondi al conduttore, allora. Chi è che applaude? Chi è che applaude? Non lo so, applaudiranno là, ma chi se ne frega? Ah, c'è il. Loro c'hanno il. Paolo, qui non siamo da soli, ovviamente, perché siamo nei quartieri spagnoli. C'è la clac, insomma. E ci sono moltissime persone. La clac dei quartieri spagnoli. Poi una persona parla di onore, lui parla di onore al sottoscritto, capito? Di onore, onore. Ti rendi conto? Quasi una cosa meloniana. Onore, onore. Sì, un pazzesco, onore. Dai, vai, su, dai. Giovanni da Milano, vai, Giovanni. Dimmi, Giovanni, dimmi. Sì, buonasera. Sì, metti bene il telefono, amico mio, metti bene il telefono. È messo bene. Vabbè. Mi fermo e tutto bene. No, non si sente, non si sente. Non devo sapere, adesso si sente, vai, dimmi. Allora, faccio una premessa. Capisco perfettamente che la trasmissione si basa su uno schema ben preciso. Uno dice oggi una bella giornata e il conduttore secondario deve necessariamente dire no, oggi sta piovendo. Secondario è un cazzo, poi dipende. Vai, dimmi, se allora. Oggettivamente non è. E più qui ci siamo, perché vedete, per esempio, la sceneggiata, uno dice una cosa e l'altro deve smentire. Vabbè, allora? Però, ascolta. All'inizio della trasmissione il signor Contardo, il conduttore numero 2 o numero 3, allora? Si è permesso di dire che lui, avendo lui 43 anni, è un virus che a lui non gliene frega un cazzo. Statisticamente sì, ma statisticamente non mi ammazzerà. Aspetta, un attimo. Cioè, ha detto che non si muore, questo è una realtà. A 40 anni non si muore. Fammi finire per gentilezza. Prima di dire una cosa del genere dovreste però capire che se uno di 40 anni o uno di 38 anni o uno di 35 anni gli succede di andare anche lui in rianimazione, poi non ma muore. Per carità, certo. Sta togliendo il posto a uno che magari ha 80 anni e deve andare in rianimazione. Assolutamente così. Questo messaggio oppure no? Scusami, ma tu sei Giovanni Cacioppo? No, io non sono Giovanni Cacioppo, sono Giovanni Zappalà. Giovanni Zappalà, Francesco da Roma. Siamo tutti responsabili del prossimo. Francesco da Roma, capito? Siamo tutti responsabili del prossimo. Francesco da Roma. Francesco, sì, giusto. Ciao, Mattarella. Ciao Giuseppe. Che c'entra? Non è che tutto quello che dice Mattarella, in questo caso ha ragione. Francesco da Roma. Siamo tutti responsabili. Francesco, ciao, dimmi. Giuseppe. Dai, dimmi, Francesco, dimmi. Sì, al volo. Guarda, io non ho capito una cosa. Ma come mai tutti quanti hanno una sorta di codardia nel rispondere a una basica domanda che ha fatto il papà del ragazzo morto? Sì. Ovvero, se mio figlio stava scappando e il carabinieri gli ha sparato alla nuca, sì, è legittimo o illegittimo? Anzi, no. Veramente tu poi ieri sera all'ultima risposta hai risposto e hai detto... Sì, se l'ha fatto avrai... No, io ho detto un'altra cosa, ho detto che se si dimostrerà dall'inchiesta che è stata un'esecuzione, cioè che lui è stato giustiziato... Ma cosa c'è l'esecuzione? Un carabiniere ha il diritto di sparare, soprattutto un carabiniere ha il diritto di sparare, io non so come ha sparato, in che circostanze ha sparato, in che circostanze psicologiche, ma il padre non è che uno fa domande, i PM fanno le domande, i magistrati fanno le domande, no. Guarda, tu parla quanto mi pare, basta che non mi attacchi e mi fa dire la mia... Fermo là, ti richiamo dopo. La Zanzara. Italian first. Si scrive first, ma si pronuncia first. Prima gli italiani. Chi se ne frega di questi migranti? Ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? Lasciamoci condizionare dalla paura, non lasciamoci strumentalizzare dalla paura, se dobbiamo correre. senza paura. Se dobbiamo correre i pari ma senza alarmismo. Credi che questa mia non sia poesia? Guarda i prodigi della mia malinconia. Sarò la sintesi del delirio dei matti. Morirete tutti, lutte merde. Auf, bolgia di critici osannati. Demolirò gli assiomi cementificati. Dove i poeti laureati, Croce Lenzo, ti stupirò con la ballata dei rifiuti. Lombardi, avanti coronavirus, locomotiva della secessione. Adesso i soldi ci servono qua e rimangono qua. Poi voglio vedere quando scoppia la bolla al sud. Niente più posti in ospedale, ma non ci sono più neanche qua. Muro e avanti così. A te che Icaro ha ispirato i canti e una sintassi di parole seducenti. Distruggerò gli endecasillabi del madrigale. Nei giorni scorsi, caro David, un consigliere comunale di Pavia, vicino alla Lega, ha scritto: noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive in mezzo all'immondizia, napoletani et similia, da gente che non ha il bidet francesi e da gente la come cui capitale i francesi. I francesi ce l'hanno il bidet. Beh, no, si chiama tutti. Così per quello. E da gente la cui capitale Bucarest ha le fogne popolate da bambini abbandonati. Beh, ma cosa vuol dire? Da queste persone non accettiamo lezioni di igiene. Tranquilli, alla fine di tutto questo i ruoli torneranno a invertirsi. Ma poi ha cantato quella canzoncina che aveva cantato anche Salvini quella volta. Senti che puzza, ti ricordi che Salvini tale l'aveva cantata? Tale Fraschini, tale Fraschini. La tradizione culturale è quella. L'ho sfiorato ieri sera mentre combatteva con il signor Auriemma, Lida del Debbio. Che bella compagnia. Auriemma. Ma che bel giro, ma che bella compagnia. Evviva. Prima di esprimersi in certe considerazioni deliranti ed ignoranti, io inviterei il signor Fraschini innanzitutto a informarsi e a studiare la storia dell'Italia e poi, quando parla del Sud, dovrebbe apporre sul suo volto la mascherina. Cosa di speciale, Rambo? Perché ci può diffondere all'interno della nostra cultura meridionale un germe, un batterio, no, un virus ancora più aggressivo. No, l'ignoranza di marca razzista, no, quella che ha espresso il signor Fraschini. Addirittura, povero Fraschini. Come la volete chiamare? Dategli il nome che volete. Abbia pazienza. Francesco dalla provincia di Potenza, avanti tutta, dai. Francesco, dimmi. Dimmi, Francesco. Anzi, prima c'era Francesco da Roma, dai, ritorniamo con Francesco da Roma. Vai, Francesco, dimmi. Pronto, Giuseppe. Allora, dimmi, dai. Dai, allora ti volevo dire che se il carabiniere ha sparato alla nuca al ragazzo mentre andava via, ma quello lo stabilirà la magistratura. Così poi ha sbagliato, anche, è ovvio. Ma non è detto, ovvio. Avesse sparato, no. Dipende quando se spari. Se non c'era una situazione di pericolo, è evidente che ha sbagliato. Ma mi sembra evidente. Magari c'era una situazione di pericolo, quello c'è una pistola. La magistratura, se non c'è una situazione di pericolo e quello stava scappando, mi pare evidente che ha sbagliato. Ma non ci vuole nulla a dirlo. Vabbè, Francesco, allora. Dimmi. È la logica che lo dice. Dimmi, rispondi, Francesco. Allora vorrei fare la domanda. Arriaia con sta domanda. Il padre non fa domande. Ma che domande fa il padre? Allora dimmi questo, dimmi quest'altro. Mi devi dire. Vabbè, niente, Carlo da Roma, dai, Carlo da Roma. Pronto, Giuseppe. Oh, che è? Il solito camionista. Sì, sì, solito camionista. Camionista. Ma saluta pure Parenzo, quell'ebreo comunista. C'è pure Gottardo stasera. Eccomi, sì, sì. Buonasera. Che trio monnezza. Senti, Giuseppe, ma quando è scoppiata la guerra eravate primi in classifica e hanno annullato il campionato. La Lazio, dici, la Lazio. La Lazio. La Lazio. È scoppiata il colera 74-75, erano primi in classifica e vanno annullato il campionato. Ma che annullato? Ma siete primi in classifica, cioè, ma non è che portate sfiga, Giuseppe. Vabbè, ma queste sono battute, dai, su, Carlo. Cosa vuoi dire? Che cosa vuoi dire tu, camionista fascista? Cosa vuoi dire, Carlo? Che devo dire? Niente, ormai avete detto tutto. Ma che cosa? A me è piaciuto Vittorio Sgarbi contro la D'Urso, mamma mia, era uno spettacolo. Ma poi ha chiesto scusa. Ha chiesto scusa. Ecco, gli ha imbrogliata come si fa lui. Tu dici gli ha imbrogliata, hanno fatto finta. Il grande Vittorione è sempre in gamba. Tu comunque ti proclami sempre camionista fascista. Ci sono camionista fascista anche onanista, da quello che capisco. Cosa? Parla di Pipponi. Venezia sotto al balcone dei Mussolini. Che tu l'altra volta hai detto no, che le posso dare appuntamento in Piazzale Loreto invece che Piazza Venezia, visto che sono a Milano. Visto che sono a Milano, venga a Piazzale Loreto, le offro un caffè. Ho lavorato 4 anni con la ditta del Veneto, ma chi capivo quando parlava? Per forza parlavano in italiano, a differenza sua, e per cui non li capiva per quello. Pure italiano, certo. Passateci, Carlo. Scusi, sì, lei che è camionista fascista in questo periodo, per chi su chi orienterebbe le sue preferenze elettorali? Diciamo, ma sempre no? Si sa, ma che c'è da dirlo? Meglio ripeterlo. Che devo ripetere? State zitto, meglio ripeterlo. Comunista ebreo, meglio ripetere. Salvini, l'elettore di Salvini. Adesso Mussolini non basta più, ce ne vogliono tre per dare la rematata. Salvini, Mussolini ce ne vuole. Sai che se ci fosse un Mussolini oggi tu praticamente saresti il primo a finire impiccato, tu lo sai, sì, il primo a finire impiccato. Sei il primo a finire impiccato, sei tu, sicuro. Mussolini no. Perché non vedo ampicato? Sua eccellenza. Dovrebbe far riflettere però a Salvini che una parte del suo elettorato è questa roba che qua. Ripudierà sicuramente. Dovrebbe. Senti quell'altro. Scusa, ma secondo te in questo periodo dovrebbe arrivare? Perché non va a Milano lei, a Codogno? Perché non va col camion? Ma perché l'altro giorno bravo. Però rimani anche. Rimani un po' a Codogno, rimani un po' lì. Stupida creatura. Rimani lì. L'altro giorno dovevo andare a Treviglio, sono uscito a Lodi per tagliare a mezzo, no? Vabbè. Tu manco riconosci. Ma non sei uscito però non sei uscito dall'autobus, non sei uscito dal camion, per carità. Sei rimasto lì. Dovevo andare a Treviglio. Prendi un po' d'aria là, prenditi un po' d'aria, scendi. Beh, l'aria non c'è niente. Perché che me ne frega? Ma io ci sto sempre a Milano, sempre. Sto sempre a Milano, Bergamo, Brescia, sempre. Piazzale Loreto non male. Io perché bellissimo. Non mi va a dire, faccio pubblicità. No, ma passa per Piazzale Loreto, è uno dei posti più belli. È uno posto bellissimo. Piazzale Loreto. Vai a vedere il caffè a Piazzale Loreto. No, invitato, non vuole venire. Io vado a Piazza Venezia. Vicino al ghetto dei cosi, vicino al vostro ghetto, c'è ma un che ghetto c'entra? A Piazza Venezia? A Piazza Venezia, certo, c'è il monumento. Piazza Venezia. Non sta nel balcone Mussolini, c'è pure il ghetto dei cosi, sì, dei comunisti ebrei. C'è ma il tiramidux, da Po' Legato, lei è andato a mangiarlo? Esiste ancora un Benfasiano. Ma perché non vai a mangiare da Po' Legato al bar, al ristorante, quello del fascista che fa il tiramidux? Vai a mangiare da lui, direttamente. Vabbè, ma che vuol dire? Perché no, non perché sarebbe interessante perché... se le fa lo scontrino oppure no. Mamma mia, ritaglio, ma questo proprio sta su ricoglioni proprio con tardo, non lo posso sentire. È come ad Urso, uguale. Ma perché vai alla trasmissione da ad Urso? Purtroppo mi hanno voluto. Disgrazia proprio quando sei nato, c'è una disgrazia. Vai da ad Urso, tutta disgrazia. O se no pure va bene pure su Italia 1 a mezzogiorno. No, ma guardi, allora, signor Carlo, fascista. Signor Carlo è fascista, le posso chiedere fascista. Un piacere. Dimmi. La prossima volta che lei ascolta la Zanzara guidando il suo camion, Fammi sentire. Perché non fai direttamente che ne so, una canzone fascista al posto dei faccetta nera. ma non so buono a cantare, sono suonato. Perché la prossima volta lei si tappi, si tappi le orecchie con entrambe le mani facendo una curva e così non ci sentirà più. Certi cantanti so Gottardo Comparenzo, capito? Ma che tu dica fa, certi cantanti. Fermo là. La Zanzara. Vi spiego un pochino i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento. Quali sono? Nella regione Lombardia ci abbiamo Bertonico, Casapustolenco, Grundo. Queste sono le zone che dove c'è il focolaio. Andiamo pure. L'altro suo compare, là accanto, il romano... E David, alla fine aveva ragione Grillo, Tutti a casa, si lavora da casa, su internet, in streaming, nessuno va più a lavorare, nessuno, in Germania, non va più nessuno, anche i dentisti lavorano da casa, è normale, in Germania lo fanno, ma è normale, coi computer. Eccoci. Chissà come va il lavoro di Efeball, del turco, caro Parenzo, il famoso turco. Ma non ha turco. Mai lavorato l'anno, figurati adesso. Cioè, però a me ha lasciato diversi audio nei giorni scorsi, in cui ha detto che il suo lavoro proseguiva regolarmente, anzi addirittura è andata in tour. Credo che fosse a Pisa in questi giorni. Era regolarmente in tour, poi sai, questa qua va per clientela, cioè per appuntamenti, cioè, era in tour. Era in tour a Pizza, se ne sbatti i coglioni. Ramazzotti va in tour. Guarda che stasera te la chiamo. Ti chiamo il turco, ti chiamo il turco. Carità. Cioè, voglio capire che cosa è cambiato. Ti chiamo il turco. Tra l'altro, c'è la notizia che quello che sta facendo la Turchia, no, della vergogna di quel che fa la Turchia. No, ma la cosa importante sono le abitudini quotidiane delle persone, non sono queste cose di geopolitica di cui tu parli continuamente. Il Welcome, famoso bordello austriaco al confine con l'Austria, il Welcome, cioè al confine con in Austria, ma al confine con l'Italia, diciamo, a pochi chilometri da Tarvisio. Frequentatissimo dai Veneti, pare che sia calata la clientela, mi dicono le cronache, del 50%, 30-50%, hanno dovuto lasciare una serie di ragazzi a casa. Ma le mettono in cassa integrazione? I miei contatti all'interno del Welcome mi dicono... Le gole profonde del Welcome, in questo caso, esatto. Termine appropriato. Cioè, loro hanno un limite giornaliero di 155 ragazze, 105 ragazze prostitute, e siamo in questo momento, mi dicono le fonti privilegiate che ho all'interno del Welcome, sugli 80-85. Dunque, tutto sommato, siamo anche fortunati. La realtà è che molte ragazze sono andate via perché avevano paura, altre le hanno mandate via per precauzione. La cosa fondamentale è questa, è che il cambiamento di abitudini nella clientela arrivano, scopano e scappano. Si prolungano più di tanto. Figurati. Per paura di prendersi il virus. Capisci come cambia la vita dei puttanieri italiani, no? Dei puttanieri italiani. Questa trasmissione anche fa un po' la cronaca del puttaniere italiano all over the world, per cui non possiamo che registrare e rimarcare quello che accade, giusto Gottardo? Non sì, capisco sì, no, per carità. Di cosa si stupisce. La cosa non mi tocca, non metterò mai piede in un posto del genere. Cioè tu non sei un po'... Non sono mai stato puttana in vita mia. Non sei mai stato puttana, no. Non sei colpito dal fatto che perdono soldi anche i bordelli, non te ne frega niente. Cioè. No, dall'idea di quanto siano pusillanimi poi questi personaggi che frequentano i bordelli anche in tempo di guerra virale, dovrebbero affollare quei posti. Bravo. Lì. E infatti il nostro puttaniere preferito, il nostro il mitico Pietro Longo, colui che assomiglia a Pietro Longo, precisi il grande leccatore che abbiamo incontrato dal vivo a Udine. Esatto, lo dovresti conoscere anche tu, Davide. L'hai conosciuto anche tu. Certo, quello con le bretelle. Beh, lui fa un appello ai puttanieri. Cioè, puttanieri, se siete veramente puttanieri, non dovete avere paura. Raccoglietevi. La passione per la figa deve essere più forte della certo, paura. Raccoglietevi a corte. Ha ragione. Hai ragione. Qui Pietro Longo alias Santani Mascetti. Appello ai puttanieri professionisti o tanti sedicenti tali. Se avete paura, se siete ipocondriaci, non fate il puttaniere professionale, perché non è per voi. dovete continuare ad andare nei locali, continuare ad andare nei locali, continuare ad andare a puttane. Il nostro è un mestiere che ha un certo grado calcolato di probabilità di prendersi qualcosa. Sciocchezze, nulla di che. Ma se uno è ipocondriaco e smette di andare per questa cretinata del coronavirus, allora state a casa dalla mogliettina, perché non siete fatti per essere puttanieri. I miei mentori che 20 anni fa mi hanno portato è gente che ha girato il mondo e che ha preso un po' di cosette. Nulla di che, ma qualche piccolo virus l'abbiamo preso tutti. Quindi o fate i seri, i puttanieri seri, oppure state a casa, ragazzi. Però dal punto di vista, caro Parenzo, non mi pare una priorità in questa fase. Comunque... come no? Ma stai scherzando? Ma hai sentito ieri i consigli del nostro sessuologo andrologo di riferimento, il signor Mondaini da Firenze? Sì, no, cioè, ho capito. Ma la gente in questo momento pensa anche a scopare. Chiaro, ma di che parli? Lo ma... faceva anche durante le pestilenze peggiori. Ma figuriamoci, cioè, con degli accorgimenti. Naturalmente ha detto che bisogna essere fedeli, sarei contento, no? La fedeltà, il sesso orale sconsigliato, le posizioni, ci ha detto meglio la pecorina di altre cose. Pensa al Decamerone. Che senso, no, certo. Scusa, no? Ah, beh, sì, certo. Fausto da Roma, dai, Fausto. Fausto. Buonasera a voi. Io dimmi. Chiamavo per quanto accaduto a Napoli, perché mi ha riacceso brutti ricordi, perché ho vissuto la stessa identica situazione, anche se sono passati tanti anni. Cioè? E cioè sparare, io ero un poliziotto, sparare a una persona che ti sta con un'arma davanti per difenderti mentre stai con la tua ragazza. Quanti anni fa è successo? È successo nell'84, quindi mi ha riacceso perché 22 anni ce l'ho avuti anch'io, erano esattamente, forse credo all'età di... tu avevi 22 anni, eri un poliziotto? Ero un poliziotto. Cioè, quanti anni fa, scusami, che ho forse perso la comunicazione? 84, stiamo parlando di 40 anni fa. Cioè, ormai hai 60 anni, c'hai? Ce n'ho 58. 58, basta, c'è una voce molto più giovanile. Comunque, vabbè, sembravi veramente un ragazzo... Non sto più in polizia, da qualche anno. Cioè, tu a 22 anni hai sparato e ammazzato uno? No, non l'ho ucciso, non so se ho fatto bene o male, comunque ho reagito davanti a una pistola, gli ho sparato e forse ho sbagliato come poliziotto perché dovevo ucciderlo, perché stavo pistola contro pistola, quindi se lui fosse riuscito a spararmi avrebbe ucciso. Ma qual era il contesto? Una rapina? Contesto era che io stavo fermo con la ragazza in macchina, non stavo facendo niente, stavo... Ma in divisa? Facendo scuola guida. No, Borghese, ero libero, stavamo facendo scuola guida con la fidanzata e quindi... Giuliana, che spero che mi ascolti perché ogni tanto la rivedo, è ancora lei, è traumatizzata da questo... Non è più la tua fidanzata, ho capito. Purtroppo anche quello successe, che poi dopo un anno vi siete lasciati. Erano giovani. Vabbè, hai sparato, cioè questo qua che ha fatto? Stava facendo una rapina, che stava facendo? Quindi in pratica si è avvicinato alla macchina, io mentre parlavo con la ragazza, lei, vedo dagli occhi che punta la parte mia di guida e sento questo rumore che è tremendo, che ancora quando lo sento mi fermo, e cioè il rumore metallico sul vetro, cioè di una canna di pistola, poi ha un rumore particolare su un parabrezza. Quindi mi giro e vedo questa canna puntata addosso a me. A lei. Quindi non dico adesso con che scusa sono riuscito ad allontanarmelo dallo sportello, dicendogli che me ne uscì fuori, dicendo: guarda, sei un rappresentante in orologi, fammi scendere, ti do tutto, stai calmo, stai tranquillo. Però quando sono uscito, lui, invece di mettersi lateralmente perché c'era una siepe, mi si mise davanti il cofano della macchina a 2-3 metri e io, come sono uscito, ero giovane, uscivo fuori da un periodo di addestramento abbastanza buono con la pistola, quindi ero giovane, quando c'è la gioventù c'è una reazione più rapida, quindi esco e ho cominciato a sparare addosso a lui. Quanti colpi hai sparato? 14. Ma quindi lei non aveva 14 né, aveva colpi. Il colpo in canna e senza la sicura? Sì, ero addestrato per avere una pistola che era uscita negli anni 83-84 a Brescia. Ma 14 colpi dove l'hai colpito? Non ho capito. Alle gambe. Ma hai mirato le gambe o no? Mia, 14 no, ho mirato alle gambe, ho mirato basso, mirai basso, infatti con un colpo... Però non ti sei trovato con la pistola puntata alla tempia come è successo al ragazzo? No, lui si è... io con questa cosa di spostarsi... lui mi si è messo di fronte, a quel punto ho deciso di reagire, però, perché ce l'avevo davanti. Sinceramente, se avessi avuto la pistola puntata in quella maniera vicino, non avrei fatto il gesto di tirar fuori la pistola, perché probabilmente ci avrebbe ucciso a tutti e due. Quindi il fatto che lui mi stava vabbè, comunque la cosa fondamentale è questa, e mi pare di capire che tu sei dalla parte del carabiniere in questa vicenda di Napoli. Siamo su due livelli diversi. Lui stava facendo una rapina e l'altro stava con la ragazza. Poi poteva stare con Rolex, con la Ferrari, con chi cavolo è, non c'entra nulla. Cioè, il fatto che comunque, e poi stai con la tua donna, cioè hai ancora più. Però 14 colpi con una semiautomatica ha premuto 14 volte il grilletto. Beh, allora qual è il punto? Sì, ma come si chiama la follia? Ma che follia? Ma ragazzi, ma che follia? Ma quello fa il poliziotto, non è, che fa il coso. Dottore, non so se, ma mi sembra una buona follia questa, però per carità, io non mi intendo di armi e quindi ragazzi, non posso dire. Detta ma voi che pensate che i poliziotti facciano che cosa? Che debbano stare. Poliziotti hanno l'uso della forza, quindi. Ma lo ha preso almeno una volta su 14 colpi? Sì, certo. Immagino. No, l'ho preso con 13 colpi. Ah, però. E nonostante questo costui non è morto. A 13 colpi alla gamba. Allora, siccome ho sentito dei commenti un pomeriggio di questi, perché vi seguo proprio per questa cosa. Che c'è il fatto che uno ha addestrato due colpi al corpo, una alla testa, sono tutte cazzate. Perché certo poi che sono cazzate. Cioè, per fermare una persona servono 13 colpi. Ma non è quello che serve, è quello che succede, è diversa la cosa. Ma per carità, se lei ha fatto bene il suo lavoro e è stato così riconosciuto, è tremendo comunque. Sei stato condannato, hai avuto un procedimento? È stato condannato. No, tu hai avuto un procedimento per qualcosa? No, io ho avuto, lo sai che cosa? Io andai addirittura senza legale al processo. Ma perché hai avuto un processo? Sì, ho avuto un processo. Certo. Infatti, poi dopo questo processo me ne andai per un po' di tempo dalla polizia. Ma perché cosa? Processo per cosa? Eccesso di legittima difesa. Se le dico questo, alla terza domanda, che io sono abbastanza impulsivo anche adesso, nel senso del mio carattere, proprio così, sì. Abbastanza. Allora, alla terza domanda dell'avvocato difensore, che diceva perché avevo sparato tutti quei colpi, com'è e risposto? Io risposi un po' alla romana. Perché non cadeva, a quel punto ho sentito gli urli, ecco cosa la polizia, ecco che cosa tu te ne sei andato per quello dalla polizia, per questo fatto? Sì, dopo il processo me ne sono andato via. Per fortuna, uno impulsivo armato è pericolosissimo, sì, meglio che sia andato. Ma non dite cazzate, ragazzi. Certo. No, mi sta dando ragione, mi sta dando ragione l'ex poliziotto. Non ti sta dando ragione, lo dice per l'età. Ma lo sa perché non cadeva? Perché i 9 parabellum delle forze di polizia, comunque, se avessi avuto un colpo di 357 con una botta l'avrei fatto cadere. Ma quel signore, che tra parentesi vi dico, era una guardia di finanza, cioè io mentre quando sparavo e dicevo fermo polizia, lui mi urlava: non mi uccide, sono un collega. E perché le aveva puntato la pistola contro? Non era un rapinatore, non ho capito. Era il rapinatore, ma era una guardia di finanza. Cioè era uno della finanza. Gli articoli. Aveva il terzo tempo italiano dei 100 metri questo signore. Faceva parte delle fiamme gialle. Sì, ma ho capito, tu ti sei pentito di aver lasciato la polizia, hanno fatto male a processarti. Cioè ragazzi, no, questo... io sono rimasto... è successo questo, che io poi sono stato in pratica imputato ed amnistiato senza che io potessi difendermi, senza saperlo, perché nell'85, con l'anno santo, c'è stata l'amnistia. Quindi io mi sono ritrovato senza saperlo. Succede che poi fuori dalla polizia faccio la domanda per il porto d'armi. Adesso questo è un altro discorso. E mi dicono ho scoperto che ero stato imputato ed amnistiato per eccesso nell'uso legittimo delle armi. Vabbè, una follia. Ciao, giusto, amico mio, ciao, esatto. ciao, buon lavoro. Allora, nei giorni scorsi abbiamo ricevuto questo messaggio da una nostra vecchia conoscenza, un amico di Polegato, Leo. Io lo chiamo il fascista Leo. Il fascista Leo. Sentiamo prima questo messaggio, poi lo chiamiamo, perché voglio regolare i conti con Leo. Tu e Gottardo siete di mezzo a questo messaggio, Lorenzo, sei una merda. Tu prima di parlare del Polegato, sciacquati la bocca, capito? Che lui è un vero italiano, tu sei una merda, non sei degno di portare un passaporto con su scritto Repubblica Italiana. Sei una merda. Vedi che da Polegato io sono andato tante volte. La cucina ci puoi mangiare, hai capito? Polegato ha dei controlli come tutti gli altri, tutte le regole, capito? Coglione, hai capito? Trendi con un altro. sai quante della Digos, va bene, dei NAS vanno lì, capito, a cavallo, perché sono quasi tutti di noi. Il 95% di chi porta la divisa, dai carabinieri alla polizia, alla Digos, ai NAS, a tutta quella, tutte le forze dell'ordine, non si esprimono, non dicono niente perché hanno paura di perdere il posto di lavoro, perché quello è, perdono il posto di lavoro, ma ti garantisco, okay, che il 95% sono tutti fascisti, tutti di destra. Ma te lo metto per iscritto, io personalmente li conosco tutti. Nel giro di 50 km, sia di carabinieri, polizia, della finanza, dei NAS, tutti li conosco, va bene? E tutti sono con me, tutti sono con me. Coglione, sei fottuto, coglione, che se si va a votare tu e i tuoi amici sinistroidi di merda siete finiti, coglione. Spera, prega a Dio che tu non scappi, scoppi una guerra nella rivoluzione d'Italia, perché tu sarò il primo che vengo a cercare, capito? Non preoccuparti, se scoppi una guerra civile in Italia, una rivoluzione, ti garantisco che tu e quell'altro coglione di Gottardo sarete i primi che io verrò a cercare, ma te lo giuro, te lo prometto, è una promessa, credimi. Innanzitutto questo signore si dovrebbe vergognare di dire una falsità colossale, che le forze dell'ordine a 90-95 persone sono fascisti eccetera. Ma chiamiamo, ti prego, perché me la voglio inchiappettare questa volta. Pronto? Leo? Sì? Oh, hai rotto i coglioni con sti audio, eh? Oh, Crucia, ma hai rotto il cazzo tuo, eh? Tu e Parenzo, ma hai rotto i coglioni voi? Due mi hai rotto i coglioni, va bene o no? La guerra... Oh, amico mio, ma hai rotto il cazzo la guerra civile! La guerra civile! Con me, fai una trasmissione in diretta su televisione... La guerra civile, ma di che parli? Vaffanculo te, ma che a sputare cosa? Ma che dici? Richiama. Sono Gottardo, amico Gottardo, mio. Gottardo, altro stronzo di merda pure tu. Ah, personaggio di merda io. E come mai? Come mai personaggio di merda? E inutile che voi chiamate al telefono. Sì. Volete fare una cosa seria? Imitateci in una trasmissione televisiva in diretta. Ma quale televisiva? Se facciamo la radio. Ma io te lo dico in faccia a te. A quel frocio di... Frocio per modo di dire, sono come che ci amici. Mo' c'è quei frocio, non ce l'ho che frocio. Ma frocio per modo di sì, sì, sì. Cruciano che fa sempre la puttanella, perché Cruciano è una puttanella. È una puttanella. Sono d'accordo. Io, capito? Sono d'accordo, fai, con fai, lei. Fai intendere che c'è la parte di destra e poi rompi il culo a quelli di destra. Scusami, poi Leo. Cazzo. Leo, hai detto che tutti i poliziotti sono fascisti. Vergognati di questa roba. Dovrebbero qua. Querelarti. No, mi vergogno perché è vero. Ti dovrebbero querelare. Ti dovrebbero fare un culo, sì, così per quello che. Ma i coglioni. Guarda che essere fascista non è un reato. Bello. Ma è falso quello che dici. È falso quello che dici. Falso. A questo qua. A questo qua gli ci vuole una bella sberla e poi vedrai che torna normale. Vieni, una bella sberla, coglione. Una bella sberla. Coglioncello, vieni qua a darmi una sberla. Già il tuo amico, il tuo amico. Intanto quando ti ho visto non l'hai fatto. Coniglio. Intanto quando la tua amichetta si è beccato il tiramisù in testa, si è corso via con la coda tra le gambe. Tutti leoni del giorno dopo. Leoni del giorno dopo. Coniglio. Perché non sei venuto? Perché non sei venuto? Perché non sei venuto a tirarmi un papagno in faccia? Io vi dico soltanto una cosa. Io vi dico soltanto una Coniglio. Cosa. Pregati Dio che la cassa di mano a strada quando passo io, perché bravo. La mia macchina non frena per voi. Ti correliamo. Voi siete la merda d'Italia. Voi siete il disonore dell'Italia. Ma Leo, scusami un attimo, Leo. Io voglio capire una cosa. Innanzitutto hai detto una cosa falsa, vergognosa sulla polizia, il 95%. Ma non è vero. Tu lo dici che sono perché il 90% di quelli sono come me. Ma il 90% di quelli che conosci tu. E poi hai detto un'altra cosa a Parenzo, siete fottuti, ti veniamo a prendere la guerra civile. Vieni. Ma che dici? Ma quale guerra civile, di che cosa? Ma di che parli? Ci andiamo avanti così per forza. Ci mangeranno per strada le persone, si mangeranno. Adesso pure con il coronavirus la gente ha la fame. Ma che c'entra? La gente ha la fame, state facendo terrorismo mediatico. Ti voglio dire soltanto una cosa. E come sta, Sua Eccellenza? La guerra civile in Italia che guarda che ci mancherà poco, perché qua c'è una guerra tra poveri, ok? Dimmi. Sono autorizzato a fare quello che penso. Ma cosa? Ma... Se c'è una guerra tra poveri coglioni, ascolta, probabilmente. Ma che dice Sua Eccellenza? Sua Eccellenza. Scusami, ma Sua Eccellenza come sta, Sua Eccellenza? E ti giuro, questo mi fa impazzire. Questo Leo mi fa impazzire. È una specie di criminale. È una specie di è un fedelissimo di Polegato. Ma no, ho visto che tu hai praticamente ricoperto lì. Guarda, sì, che ridicola. Hai ricoperto il computer che hai davanti, la tastiera del computer, sì, le cuffie, anche, certo, e il microfono di Celofan, sì, ma che roba, sì, è? Ma perché non serve un cazzo. Continua a lavarsi le mani. Ma sei ridicolo, rispetto, ma che roba rispetto, è? Per rispetto, non mio solo, ma dei colleghi che poi usano questo studio. Ma non sei infetto, non sei infetto. Non io, ma è molto semplice, per rispetto, ma rispetto dei colleghi se non che sei sono qua. Ma cosa vuol dire, dai, su. Che magari posso essere un portatore attivo del virus. Però ti do una notizia che tu come non puoi... Come avete letto, non perché toccare, siete informati. Non toccare, siccome siete informati, lo sapete. Allora, non sei informato, essere... non sei informato di una cosa, David. Oggi che c'è il coronavirus, virus in giro, Cruciani ha i capelli particolarmente puliti. Ma perché ho corso? Perché ho corso. Francesco, corso. Provincia di Potenza, dai. Francesco, dimmi. Fermi tu, fermi. La Zanzara. Pronto? Guarda, ma va tra piangole, guarda, a te grindri dici, tu vuoi clandestino. C'è un po' di rabbia, va, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Ma sulla Santanché? Si ricorda cosa ha detto? Certo. Ecco, che lo vuole ripetere? Offesa, lo offesa, vuole ripetere? Perché ha detto che meglio, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Sant'Anché? Piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Sant'Anché? Una vergogna! Una vergogna! Cruciano che fa sempre la puttanella, perché Cruciano è una puttanella. È una puttanella, una puttanella, sono d'accordo, io sono d'accordo che con fai, lei. Fai intendere che c'è la parte di destra e poi non piccola quella di destra. Fire up the flames, I'll do you damage. Lo diciamo qui, fuori dal coro, perché altrimenti non ve lo dicono. Blaze, I'm sheer con savage. Barisoni gay. No, è possibilissimo. No, you don't have to ask. I goddamn have it. Anzi, se cortesemente mi spiegate come fate a chiamare in diretta dall'estero, così almeno glielo dico in diretta. Paraculo, paraculo. Non si manga una lota, si peggia una lota. Schife om. Cioè ci hai frantumato i coglioni dicendo che stai con il carabiniere, stai con il carabiniere di qua, di là, pur non avendo informazioni. Però poi quando il padre di quel ragazzo ti chiede se era giusto o meno sparare il secondo proiettile, tutto all'improvviso non hai gli elementi necessari per poter esprimere un'opinione. Ma vaffanculo, Cruciale, tu non si manca una lota, tu sei proprio peggio una lota. Sei proprio schifo l'essere umano, ma pigliato scorn. Poi magari ti mando i sottotitoli. Schife om. Allora è chiaro che questo non ha capito un cazzo, no? C'ha è chiaro ragione, che questo però, non ha logica, c'ha ragione. Perché? Spiegami. Se perché, uno spiegami. Prende posizione, come tu hai preso da subito posizione, a favore del carabiniere, sì, senza, sì, sapere le dinamiche, sì, dei fatti. No, ma lei, è quella, chiaro, quella che è la domanda, no, se è vero che lui era di spalla, stava domande, scappando e gli spari, è evidente che cambia un po' il quadro. Ma non c'entra io, nulla. Io infatti ho sempre detto, non sapendo nulla, non sto con il carabiniere. Ma certo che il uno processo, sta col carabiniere, è una guerra lì, c'è stato, una guerra per bande, le baby gang, anche stato, se quella avesse un po' esagerato sbaglia, per paura, ma io sono sempre comunque dalla parte di quello, anche fosse condannato niente, sarei dalla parte sbagli, di quello. Va bene, d'accordo. Tranne il caso, l'ho spiegato, tranne il caso molto, in cui si dimostrasse in maniera molto chiara che quello lo ha giustiziato, con il che è una cosa eventuale, diversa. Ma ora che tu stai ricostruendo quello che è già previsto dal codice dici. Sì, vabbè, ma quello è un altro discorso. No, è già così la legge. Ma quando, che, quando uno dice sto col carabiniere, esprime una mozione. No, aspetta, una mozione dell'anima. Non so come la intendete voi. Una mozione dell'anima. Da una parte ci sono i rapinatori, dall'altra un appartenente alle forze dell'ordine. No, ma che applausi? Un appartenente alle forze dell'ordine sta contro i criminali. Che lui abbia esagerato, può darsi. Esatto, questo è il tema da verificare. Può darsi che abbia esagerato. Anche avesse esagerato, io sono dalla parte del carabiniere. Senti, ma non ti incuriosi? Questo è il classico modo, no, ma dei populisti. No, ma che metodo populista, non c'entra un cazzo. Ma io l'ho detto prima di Salvini, lo dico. L'applauso, ma facile, non c'entra niente. Bravo, ma perché bravo, non vuoi capire qual è il punto? Gli altri non stanno col carabiniere. Non è il punto. Bravo, lì bravo, a Napoli c'è una guerra. Una guerra per bande. Una guerra quartiere per quartiere con la gente che spara. Ragazzini di 15 anni che paura. Non mi risulta che succeda tutti i giorni. Non succede tutti i giorni di sparatorie. Di sparatorie. Non esatto. Esageriamo. Vabbè, Napoli, tutto tranquillo, avete ragione. Ha fatto notizia appunto perché non succede tutti i giorni. Anzi, prima vediamo una serie di files. No, non questo succede tutti i giorni. Succede, ragazzi, non succede tutti i giorni perché i quartieri sono ben controllati. È evidente che episodi di microcriminalità sono pochi, ma ci sono episodi di guerra tra baby gang. Chiaro o no? Ragazzi, anche ma... a Milano. Sì, a Milano, uguale a Napoli, hai ragione. Baby gang ci sono anche a Milano. Allora, oggi è sotto attacco. Oggi è sotto attacco una senatrice di Italia Viva, una vicentina che Gottardo pare abbia incrociato, non so in che veste, devo dire la verità. Durante la campagna elettorale delle europee ho avuto piacere di conoscere questa senatrice. Come si chiama, scusami? Sbrollini. La senatrice Sbrollini. Che mi sono stupito e io devo averle fatto anche questa battuta. Ho detto, beh, ma in Senato, così giovane. Sbrollini, senatrice di Italia Viva. Allora, costei ha diffuso, cioè in realtà non ha diffuso. Talmente bella da sembrare di Forza Italia. Ha fatto un messaggio, beh, Italia Viva, Forza Italia, sai, ormai c'è poca differenza. Ha fatto un messaggio che dice lei era rivolto ad alcuni amici. Effettivamente, un messaggio Italia privato. Viva, viva la figa ormai. Ma è tutto, no, Forza Italia. È tutto mischiato. Comunque, la Sbrollini, un messaggio in cui ha diffuso alcune cose che sono. È una è vicentina, lei è una storica militante prima del PD. Anche inquietante, c'è un audio anche abbastanza inquietante. Sentiamo alcuni pezzetti, senti. Oltre al comunicato che adesso ha fatto Burioni, è intervenuta Elena Cattaneo, che voi sapete essere una delle scienziate più brillanti che abbiamo. È stata categorica e devo dirvi che forse io per prima ho sottovalutato alcuni aspetti. Lei sostiene che le prossime 3 settimane saranno quelle più decisive e preoccupanti, perché pare che il coronavirus si stia già trasformando in altri ceppi più gravi, dove non ci sono più fasce di età tutelate. Ma in realtà poi andando a sentire l'intervento dalla Cattaneo, dalla senatrice Abita Cattaneo, è vero che ha detto le prossime due, ma quello lo dicono tutti, le prossime 2-3 settimane saranno le più importanti, ma non ha mai detto che il virus si sta trasformando. Ma c'è sempre una differenza tra quello che dice un esperto e quello che capisce un senatore. Allora, è quello che sta succedendo però in Cina. No, ma aspetta, sì, ho capito, però non è che uno a dice... A quanto pare. A quanto si legge dai giornali. Chiudere oggi, tutto come dicono gli esperti, ma non è vero, cioè non è nel senso che nessuno ha pensato di chiudere tutto, ma comunque poi una senatrice... Non è che si mette a fare degli audio sulle voci di corridoio. Mandate anche ad amici, a persone in cui dice hanno detto gli esperti in realtà vorrebbero chiudere tutto. Sì, ma che roba era questo audio? Magari era una cosa che non doveva uscire. Ma ho capito, ma se tu fai un audio, a parte che non sembrava rivolta ad amici, se tu fai un audio rivolto anche a un audio che magari uno ha fatto per i fatti propri ed è stato divulgato. Ma ho capito, ma non è che tu dici che gli esperti ci dicono di chiudere tutto. Stampa. Sì, ma capito, no, ma è certo. Uscito, ma non è che lei adesso di cosa viene accusata, poverina? Di avere diffuso delle cazzate. Ma non ha diffuso deliberatamente. Un audio c'è come della quelli leggerezza. Che si mandano. Davide, c'è una ma c'è io della non leggerezza. Penso proprio, io penso che invece sia un audio messaggio che non è un comunicato stampa che lei ha fatto. Ma ci mancherebbe pure che fa comunicato modo. Stampa. Che cazzo e allora, c'entra? Stiamo parlando di una cosa che di una conversazione privata che è stata. Ma non è una conversazione, diffusa. È un messaggio. Cioè, privato, un audio messaggio. Come io posso mandarti un audio messaggio? Ma se tu sei un senatore della Repubblica, in questo momento ti metti a fare un audio in cui. Ma è una sua considerazione magari privata, un altro. Senti. Quindi loro suggeriscono, come scienziati, di chiudere tutto. Ieri c'è stato uno scontro violento fra Conte e Franceschini su posizioni... E hanno ragione gli scienziati, bisogna chiudere soprattutto la bocca invece di sparare puttanate. Sì, ma era una conversazione quello privata. Quello va chiuso. Fabio, quello provincia va di chiuso. Palermo. È una conversazione privata, uno può usare anche altri toni. Ma perché uno deve avere forza a parlare? Quali sarebbero questi esperti, secondo la senatrice, che suggeriscono di chiudere tutto? Perché noi lo vorremmo sapere. Perché a questo non punto, risulta dalla commissione. Cioè a questo punto, siccome è uscita la cosa, ci dicesse quali sono questi esperti, non risulta da quello che è uscito fuori alla Camera. Non l'ha detto la senatrice Cattaneo. Chi sarebbero questi esperti che dicono di chiudere tutto? Ce lo facessero sapere, no? Fabio dalla provincia di Palermo, una volta che è uscita questa cosa, ci dicesse la senatrice, che non è l'ultima dei passanti, chi sono questi esperti che suggeriscono di chiudere baracche e burattini, attività economiche, attività di comunicazione. Stiamo alle comunicazioni ufficiali. Ma che c'entra? Stiamo dicendo quello che dice questa, dai. No, Fabio, ma è poco interessante, una conversazione rubata di non sappiamo in che contesto. Una volta che è uscita, certo, molto interessante. Non sappiamo in che contesto lo ha detto. No, ma no, per il tuo stesso ragionamento, Bernstein e quell'altro non avrebbero mai fatto l'indagine. Fabio, allora, perché direi se un non caso è interessante, no, che un caso quando un politico diverso parla, soprattutto le cose private sono interessanti. Fabio, boh, provincia di Palermo, dai. Questo caso una volta che è uscito, dai, nessuno gliel'ha rubato. Dai, Fabio, provincia di Palermo. Mi senti, Giuseppe? Dimmi. Allora, io volevo intervenire sulla prostituzione, posso? Sì, come no? La sessualità è mossa dal desiderio, sia nell'uomo che nella donna. E su questo tu e Parenzo avete una posizione simile, perché considerate due adulti consenzienti, moralmente possono fare quello che vogliono senza che nessuno debba interferire sulle loro scelte. Sulla prostituzione invece andate in conflitto, perché sulla prostituzione non si parla di sessualità, si parla di sessualità scambiando soldi. Ora c'è una, questo un mi pare elemento... abbastanza, scusa, hai detto una cosa abbastanza scontata, amico mio, cioè che la prostituzione, nella prostituzione ci sono di mezzi quattrini, grazie al cazzo. Dunque no, non volevo dire questo. Potrebbe fare il ministro degli esteri. Sto andando al sodo. Mi ha interrotto, ma sto andando al sodo. Non t'ho interrotto. Che cosa succede? Che la prostituta nella maggior parte delle ipotesi, al 99,99%, la persona con la quale ha l'approccio sessuale gli fa schifo. Ma chi te l'ha detto? Pagnoncelli. Ma chi l'ha detto? Ha fatto un sondaggio. Scusa, chi l'ha detto lo sto dicendo io. Lo dice l'Ipsos. Ma che ne sai? Chi lo sostiene? Scusa. Il metro di giudizio è la tua esperienza sessuale. Vabbè, Fabio, però io voglio capire una cosa. Secondo te... Avrai provato nella tua vita schifo qualche volta dopo che hai fatto sesso? Beh, schifo proprio. Io a volte anche durante. Ecco. Ora. È vero, sì, a volte anche prima. Cioè, volte anche prima. Il mestiere della prostituta è quello di prendere per il culo il cliente. Anche in alcune volte sì, facendo finta di essere contenta. Alcune volte, sempre. Ma non è detto. Guarda, più tardi magari chiamiamo una persona che è felice di fare la puttana. Perché se tu non consideri questo elemento, vuol dire che consideri la donna un oggetto. Ma lei è mai stato a puttane, scusi? Io no. E allora come fa a dirlo? Ma io non ho capito dove porta. Ho fatto diciamo molta esperienza sessuale pur non andando a pagamento. Scusami Fabio, in che senso? Scusa, non ho capito. Ho fatto sesso non andando a pagamento. Vabbè, questo grazie. Vabbè. Cioè, però lei come fa a parlare? Grazie, come lei come fa a parlare di cosa provano le prostitute? Il punto essenziale di questo discorso appunto, è che le persone. Ma lei parla per sentito dire di andare a buttane. La maggior parte sono coglioni che fanno schifo alle buttane. Mentre c'è un'altra parte che è pericolosa perché percepisce la mancanza di desiderio della donna e questo lo eccita, cioè è lo stesso meccanismo dello stupro. Addirittura. Lo stesso, preciso identico. Se tu sai che la donna percepisci che la donna non ha desiderio e ti arrabbi per questo, vuol dire che sei un potenziale stupratore. Cioè, tu stai dicendo che potrebbe essere vero, non è un rimedio. Non dovrebbe è una qualche psichiatra da celebrare la tua trasmissione. Come no? È il male, la prostituzione è il male, dice Fabio dalla provincia, perché non è mai andato a prostituta, però questo qua non è una, quindi come parla dire, per sentito di vabbè, questo tutta, però non c'entra, tutta congettura, dai. Vabbè, ma che c'entra, dai, non è uno. Un'analisi dovrebbe sottoporla a uno psichianalista, sì, a Meluzzi, potremmo chiamare Meluzzi e interrogarlo su questa cosa sessuali. Non c'è bisogno di andare a prostitute. Ah. Io l'altra volta ti ho fatto un esempio. Allora, se una persona venisse da te con i soldi per fare sesso con te, sì. A te, nel 99,99% dei casi, ti farebbe schifo. No, dipende, 200.000 per il culo una volta li ho offerti, nessuno me li ha dati. Purtroppo Febal avrebbe potuto offrirli. Una battuta. Però ti farebbe schifo, questa è la realtà. Ma che c'entra? Mica faccio la prostituta. Guarda, ci sono la signora Susanna della Salaria mi sta mandando dei messaggi. Innanzitutto, digli a questo signore che non ha mai provato me. Primo, dunque, non è una puttana infelice. La mitica che mignotta in bicicletta. Esatto. Da me vengono tutti quanti belli, belli tosti, belli arrapati. E poi lei non ha la sensazione di trovarsi di fronte a un serial killer, come dici tu. Cioè, l'analisi che tu hai fatto di un puttaniere, di chi va a prostitute come di un potenziale serial killer, di un potenziale stupratore, mi sembra una cosa folle. Poi chi se ne frega? Cioè, chi se ne frega? È vero che ci sono casi di ammazzamenti di prostitute, come succede però purtroppo in tanti ambiti della vita. Certo. Per cui di che parliamo? Chi se ne frega se uno in testa c'ha il fatto di stuprare o di, cioè, no, c'ha in testa una roba per eccitarsi? Non ce ne frega niente, non è questo il punto. Cioè, la prostituta sa benissimo, soprattutto quella di strada, quali pericoli corre. Ma lui parla di chi fa l'atto. Quindi ho capito questo che è il momento sbagliato. Esatto. Nell'ipotesi sei cattivo perché fai un uso dell'altra, della persona dell'altro sesso, sì, per consumo soltanto. È e il non male. Capisci che questa è una schifezza. Tu non rispetti Bravo. Le donne. Ma non dire cazzate. Per consumo, ma io le rispetto. Ma chi non le rispette? Ma chi non le rispetta? Se vuoi intervengo pure sul Napoli. Ma chi non le rispetta? Interessante il punto di vista. Ma chi non le rispetta? Chi non le rispetta? Chi va a prostitute in quel ma modo? Ma che lì? Vuol dire non le rispetta? Ha ragione. Ma no, dice tu di me. Non le rispetti perché fai finta di celebrare una festa che è una mortificazione della donna. Fabio dalla provincia di Palermo. E se vuoi intervengo pure sul Napoli. Aspetta un attimo, aspetta lì che sei buono. La Zanzara. Siete quattro froci! C'è un po' di rabbia, però... Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dice? Ho capito che è il momento sbagliato. Invita l'amichetto tuo lì davanti, si sceglie la donna, da te in radio, voglio vedere se hai coglioni, si sceglie la donna, a me mi metti una vecchia di 90 anni senza denti con la dentiera e me la inculo e mi inculo pure lui, me lo inculo insieme alla vecchietta. Grande Max. Ciao Rocco. Ciao. Allora, siamo in collegamento in questa Italia in cui incombe, soprattutto in Lombardia, l'ipotesi della zona rossa. In realtà, ecco, la notizia è stata verificata. Blocca Gottardo in Lombardia, a quel punto lo blocca lì, non si può più muovere. Potrei dormire a casa di Cruciani, no, la cosa mi ripugna abbastanza. È stata, già l'hai fatto, per cui non rompere i coglioni. sono stato accudito, devo dire, in maniera impeccabile, non da te, che sei un cialtrone, un ospite orrendo, ma da quell'angelo. Con la fidanzata, fantastico. Non ho dormito con la fidanzata, mi sarebbe tanto piaciuto. Dico Cora, vai a dormire con la mia fidanzata. Beh, sarebbe stato bellissimo per me, indimenticabile in maniera negativa per lei, per Eleonora, che bacio dappertutto in maniera del tutto metaforica. Non ti vuole baciare dappertutto? No. Penso che le faccia schifo. Ma perché? È affetto mio. Allora, scusami, ragazzi, però una che si fa baciare da Cruciani potrebbe farsi baciare anche da me, almeno io mi lavo evidentemente. Allora, ragazzi, siamo in collegamento. Siete quattro froci. No, Froci, no. Siamo in collegamento con Fabio da Palermo, che dice che quelli che vanno a puttane sono tutti dei potenziali stupratori, serial killer o non so che altro, giusto Fabio? Che dice che la prostituzione è il male. È un ragionamento che va affrontato, secondo me. È il male, me. Che non dice... l'ho detto tutti. Ma e poi hai detto un'altra cosa, che le puttane non sono felici. Al comunque, 99%. Fingono. Le puttane possono pure essere felici, bisogna vedere qual è il livello della loro sensibilità a secondo dei soldi che comunque, fanno. Comunque guarda, c'è qui Susanna della Salaria, la nostra amica, che ti vuole mandare a fare in culo. Ma perché stai... amica si fa la pubblicità con te, ma mi deve mandare a fare in culo la tua amica? E gli vanno 5-6 uomini sudati, sporchi, che non gli piacciono, e mi deve convincere che lei è nella gioia a fare fare sesso con loro. Certo, certo. È ridicolo. Certo che ti... si fa solo pubblicità. Ma che c'entra la pubblicità? Ma racconta la verità. Ma vai a ormai cagare. Sei una star nella prostituzione. Stai zitto, falla parlare, che lei non ha bisogno di avere pubblicità. Ciao Susanna, ti abbraccio innanzitutto. Abbracci. Ciao tesoro, come stai? Buonasera signora. Buonasera. Ciao Parenzo. Buonasera signora. Buonasera. Allora, prima di affrontare i tuoi problemi, Susanna, di ma queste... che sta di sto stronzo? Diglielo tu. Ma che sta di? Abbiamo un esempio di puttana felice che soffre a non avere clienti, ma altro prima che cosa, alla quale non hai clienti. Dato neanche un euro tu, manco un euro. Gli hai dato la signora? Dice che non no, dico, Cruciani non ha dato neanche un euro per la tua causa. Ma non è fatto vero. Tutto ma il no, cinema. Ma non credo, non credo. No, no, ma te no. Lo giuro. Ma no, l'ho promossa io la colletta. Che ma cazzo dici? Sì, ma tu di tuo non hai dato niente. Io ho dato 50 euro. Tu non hai dato niente. Ma, da, ma che 5? Sì. Vai avanti, Carenza, Susanna. Rispondi. È stato grandissimo. Rispondi a Fabio. Rispondi a Fabio. Io ricambio con un vaffanculo. Lei non deve dire queste cose perché io lavoro con la passione. Io amo quello che faccio. Bugiarda. Io mi scelgo i clienti. Bugiarda. Io non ho puzzolenti perché Bugiarda. Io mi scelgo i clienti belli, profumati e quanti con un bel cazzo duro. Quanti te ne fai al giorno? E li mangio, li divoro. Quanti te ne fai al giorno? Ma dipende, tanti. Tanti. Anche in questo periodo? Io sono molto ricercata perché lavoro con la voglia, con la felicità. Io amo i miei clienti. Dammi un numero, una media. Ma che te ne frega? Una media. Ma frega, ma l'hai detto tu da fare il confronto. Dammi una media. Da 10 in su. In su può essere tanto. E tu desideri tutti e 10 che ti fai? Desideri tutti e 10 che ti fai? Sì, io li adoro i miei allora clienti. Se li desideri, le cose sono due. O sei una bugiarda o sei ricoverata. Io mi dono tutta, da corpo tu e anima. Tu sei una bugiarda e hai agganciato Cruciani allora, che ti aiuta a fare soldi. Io ho agganciato Cruciani, ma veramente è il contrario. Ma io stavo già sulla salaria da parecchi anni. È il contrario. Ma lui ti ha fatto pubblicità. Tu sei un'azienda, vendi un prodotto. Quindi fai favoreggiamento, Cruciani. Cruciani. Guardi che io Cruciani ti ha fatto pubblicità prima di Cruciani, io lavoravo già tantissimo. Tu vendi un prodotto e Cruciani ti ha fatto pubblicità. E ha smesso di dare il mio culo. Pubblicità. E sei una bugiarda. Dovresti riconoscere che ti fanno schifo. Aspetta, Fabio, stai a ascoltare. Che cos'è che dovrebbe provare? Scusami. Pompino mio fatto con l'anima. Hai capito? L'anima. Il mio corpo dato con l'anima. Capito Fabio? E poi dopo cambi idea. Ma si parlava caro. Anche del culo, Susanna. Ma anche del culo, certo. Non hai nessun'altra capacità. Quindi. Ma che ne sai della sua vita? Che ne sai della sua vita? Che ne sai? È quello di prostituirti e far finta che ti piace. Sei una poveraccia vittima di te stessa. Mi Querelano, Susanna. Ballerina e mi è sempre piaciuto il pisello. Questa è la vita. Non puoi ballare più e hai continuato così la tua carriera. Per vivere. Ma non ti aspetta, fermi tutti. Susanna, scusami, Fabio, ma non ti vergogni a trattare così una persona che passa le sue giornate cercando di portare. Cercando di portare. A mandare quattro energumeni. Ma chi? Quattro energumeni? Chi? A sponsorizzare questa azienda. Ci vanno lo stesso. Questa è una poveraccia. Che ma poveraccio sarai tu, poveraccio. Il tuo corpo per mangiare. Sei tu che te devi vergognare. Ma io. Vai a fare il culo, vai, ciao Fabio, ciao. Allora, concluso questo scontro con Fabio dalla provincia di Palermo, cara Susanna, mi devi dire una cosa. Beh, è uno scontro vero tra due visioni diverse del mondo. Ma questo qua è malato, guarda. Scusami, ciao, Susanna, guarda. Allora, che ti è successo? Nell'ordine, questo l'abbiamo raccontato. Uno che odia le puttane, te lo dico vero, io. Sì, assolutamente, è lui che farebbe del male alle puttane, non. Bravo, non è lui per male, primo. Mai, quello male. Allora, scusami, Susanna, innanzitutto chiariamo una cosa. Ti è successo, me l'hanno anche raccontato quasi in diretta, praticamente un incidente gravissimo in cui ti sei rotto le costole. Guarda, ma mi è successo di tutto ultimamente. Un incidente bruttissimo con una moto. con un mio amico che mi portava e sì. Guarda, è stato un incidente bruttissimo, violentissimo. Io mi sono salvata perché mi alleno tanto, faccio moltissimo sport, quindi ho il corpo molto allenato, forse non sono caduta. È stata No, è stato un brutto tamponamento, quindi, Susanna. Sì, sì, sì, lui ha fatto un'impennata e siamo andati a finire per terra e lui ha perso una gamba. Colpa sua, colpa io, sua. Sì, certo, perché ha accelerato, ha impennato la moto si è sbilanciata a quindi sinistra. Da soli, senza essere tamponati da nessuno. No, senza essere tamponati. Ha perso la gamba? Ha perso la gamba? Lui sì, lui sì, lui sì. Perché gli è andato tutto il peso sopra e io sono scappata quando ho visto questa gamba spezzata, mi sono sentita male, sono cercato di andare, poi sono crollata per terra, ma ho avuto tanta gente vicino che mi ha tenuto la mano perché tremavo, quattro costole rotte, una gamba tutta contusa, lesionata. Sì. Una paura. Però per un periodo dopo questo incidente, ecco, poi per... aspetta. Torno a casa e mia madre che si rompe il bacino, quindi ricoverata d'urgenza, quindi un altro spavento enorme. Poi cosa faccio? Rimango a casa perché non potevo muovermi così e poi ovviamente sempre questo salario che mi manca perché non ce la facevo. Sabato piano piano, una settimana dopo, prendo la biciclettina, vado a vedere e trovo il mio rifugio e la mia baracca tutto incendiato, non c'è rimasto più niente. Ma chi l'ha incendiata sta baracca? Non si è saputo. Guarda, secondo te? Guarda, ma un caso oppure gente che ha paura di te, c'è paura, che ha paura. Sicuramente qualcuno che mi odia, qualcuno che ha detto: senti, hai rotto il cazzo, lavori sempre. Lavori più delle altre. Tanti anni che sei qua. C'è il magnaccia di qualcuno. Sicuramente qualche puttana che mi odia seriamente, capito? Roba incredibile. Senti, poi comunque sono anche quelli della CEA, perché io ho lavorato tanti adesso non possiamo anni. Dire la CEA. Beh, non è che possiamo dire questi della CEA. No, nel senso, sono gente che so che mi odiano tanto, che lavorano là vicino. Vabbè, ma non possiamo dire possono niente perché congetture. Dico che sono stati loro, però appunto, non insomma, c'ho dei sospetti. Vabbè, senti, a parte questo, che è una cosa gravissima, e spero che qualcuno ti aiuti a ricostruire questa baracca, che è il luogo del tuo lavoro. Però in questi baracca tempi abusiva, peraltro. Non era una baracchetta, figuriamoci. Io avevo messo sopra un tetto, due teli. Sì, poverina. No, certo, ma io figuriamoci, io non è che sono contro gli abusivi, Cruciani che è contro le cose abusive. Ma io sono. Baracchetta con due pezzi di plastica. Ma io infatti non dico nulla, infatti io dico certo. Ma io sono contro gli abusivi, ma non questo abusivismo che in un campo. Nessuno, sono venuti a vedere tutti. Ma era in un campo, poi era un campo, non è che ha costruito. Ma c'entra uno spazio di terra vicino al terreno. Sì, ma non è che si è fatto un appartamento. Ma il terreno è pubblico o privato? Ma sarà pubblico? No, non è privato, no, è abbandonato. Ragazzi, ma non è che si è fatta. Io lo dico per te, io figurati, io per me, una persona così, non è che si è fatta questo piccolo rifugio. È un abusivismo aggravato se è su terreno demaniale. Senti, no, però voglio sapere una cosa. È un pezzo di terra prima di arrivare al Tevere. Dai ragazzi, dai. Io a me lo dici, figurati. Susanna, scusa. Il pecoraro con le pecore. Scusami Susanna, però qui poi la situazione è questa. È arrivato poi pure il coronavirus. Cioè questo è il punto. È arrivato pure il coronavirus. Quindi io ho capito dall'incidente dal 16 che non lavoro più. 16 febbraio. Cioè, ti rendi conto come sto? Dal 16 febbraio non lavori più. E come ho provato, ma non niente, cioè, sono troppo dolorante. E poi, i clienti zero, praticamente in questo periodo. I clienti mi hanno cercato qualcuno, ma io gli ho detto che sto male, fra le costole rotte e gira il coronavirus, io ho paura. Infatti tutti quanti poi, perché mi vogliono bene, mi hanno chiamato: come stai? Abbiamo saputo l'incidente. Ma tu senza clienti come stai? Ma andiamo a scopare, nessuno, hanno paura. Certo, ma tu senza clienti come stai? Questo è il male. Punto. Male. Vedi? Cioè, senza clienti sta male, non solo per i soldi, che poi avrei messo da parte un po' di soldi. Ma io sono abituata a farlo 10 volte al giorno da 8 anni, cioè adesso mi ritrovo senza nessuno, ma guarda che cioè, sono 24.000 volte, contando i fermi pesca, no, per cui guarda, sono tanti, è tanta roba. È minimo, ma è molto di più. Cioè tu senza questa gente addosso, senza questi clienti addosso un po' ti senti male. Loro mi fanno le carezze, loro mi baciano, posso loro dire dire, posso dirle, Susanna? Cioè, Susanna, io faccio l'amore ogni volta. Benissimo, Susanna, questo però, che non capisce però, Susanna, quel coglione lì. Susanna, posso? Posso. Allora, 10 volte al giorno per 8 anni sono 24.000 volte. Tu sei appassionato a questa cosa. 50 euro a botta, a 50 euro a botta è 1.240.000 euro. Dove cazzo li ha spesi quei soldi? No, non credo di aver guadagnato queste cifre. Fermala, fermala, fermi ragazzi, adesso torno. Resta lì, resta lì, Susanna. La Zanzara. Vi parla il conte Giancarlo Dunfin da Venezia. Dati i dati che sono arrivati e che noi siamo trattati, noi italiani, come dei pezzenti miserabili, untosi e pieni di febbre e di malattie, è giunta l'ora di dimostrare che il popolo italiano è uno solo, è unito. Comprate solo prodotti italiani e che vadano a fare in culo a quelli dell'Europa, dato che ci trattano come dei pezzenti. Solo prodotti italiani. E facciamo vedere chi siamo, perché noi da mangiare e da godersi le nostre passeggiate e bei panorami viviamo, anzi usate anche meno benzina, e per chi ha i soldi alle Cayman portateli via, perché non potrete più andarli via a prendere, quelli vi inculano anche i soldi, perciò siate solidali col popolo italiano, solo cose italiane! Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Italiana, amatoriale, anale, arabe, asiatica, autorotismo femminile, autorotismo maschile, babysitter, belle fighe, bionde, bondage, brasiliani, britannici, bucacche, cartoni, casting, cazzi grossi, ciechi, college, compilation, copie verificate, coreane, cornuti, cosplay, culi grossi, cunnilingus, dietro le quinte, ditalini, divertenti, donne tatuate, doppia penetrazione, esclusivi, europei, fantasie di famiglia, fetish, fisting, francesi, fumatrici, gangbang, gay, giapponesi, giochi di ruolo, giovani vecchi, hardcore, hentai, in pubblico, indiane, interattivi, interrazziali, latinoamericani, lesbiche, maschi bisessuali, massaggi, masturbazione, mature, milf, more, musicali, nere, orgasmo femminile, orge, parodie, party, personaggi famosi, piedi, pissing, pompini, porno HD, porno star, reality, romantiche, rosso, russe, sborrate, sborrate interne, scuola, seghe, sesso a tre, sesso brutale, sex toy, sottotitolato, spogliarelli, squirting, strappon tedesche, teenager, tette grosse, tette piccole, trans, uomini muscolosi, vintage, webcam, video con descrizione audio. Siamo al top. No, ma video con descrizione audio cos'è? E sottotitoli, perché sottotitoli? Allora, io voglio abbracciare Susanna, che ci ha raccontato, amore, il momento che sta vivendo la nostra amica, la prostituta con la bicicletta sulla Salaria. Spero, sì, che tu possa tornare dai tuoi clienti. Madonna, speriamo che va via questo virus. Cioè, quello ancora, ancora mi sembra Susanna, complicato. Susanna, che... visto che lei non fa più quell'attività ginnica della sì, Susanna, amore mio, ma visto che non vai più in bicicletta, il culo si è un po' afflosciato, che ce l'avevi durissimo l'ultima volta che ti ho vista a Roma. Mamma mia, infatti, devo ricominciare al più presto gli allenamenti, perché ero arrivata a 60 km ogni mattina. Comunque, se questo coronavirus resta come sembra, Madonna, incombente, ma come si fa? Lo ma so. Quello ieri diceva che non si può fare neanche la pompa. Sembra di sembra che allora sia un pericolo. Sembra che questa è la cosa più bella. Esatto. Allora, siccome sembra che le cose si possano prolungare, no, anche i baci veramente. Ecco, tu baci io pure. Non so non baciare. Appunto, io sì. Tu baci. Io allora... le carezze, baci. E appunto, Susanna, io dico che tu dovresti, come faccio? Dovresti prendere dei dovresti avere un piano B, se non addirittura un piano C. No. E come guarda, fai? Ormai la Salaria, se la gente non si presenta sul lavoro, lì, dovrebbe trovarsi un lavoro. Ma come faccio questo? A lavorare? Apri un sito, apri no? un sito. No, a casa ma non lavorare? Può. No, io ti parlo dell'atto sessuale. Come faccio? Come si fa a lavorare distaccati? Come si fa? Lo farai cominciare a fare i pompini coperti. No. Sei, pompini come, coperti. Sei come i calciatori. Sei come i calciatori. Non sei infortunata. Sei infortunata. Lo desidero il mio maschio. Lo desidero, lo adoro. Lo devo accarezzare, abbracciare, sentire. Magari fa la cameriera da qualche parte. Per qualche ma ormai è abituata a fare la prostituta. Che ma fa la cameriera? Guarda, ma sì, io guarda che sono anche una ragazza di lavori. Certo. Io ho lavorato sempre. Io vabbè, ho fatto tanti lavori normali. Vabbè, ti abbraccio, Susanna. A presto. Ciao, ciao, tesoro. Ciao, sentiamoci tesoro, presto. Ciao. Ti ringrazio tantissimo. Ciao, ciao, un bacio ciao, grande ciao, a tutti. Ciao. Arrivederci, ciao, signora. Ciao, Parenzio. Allora, Francesco dalla provincia di Perugia, dai, avanti tutto. Intanto il governo ha chiesto alla Serie A di giocare, di avere le partite in chiaro, incredibile. È una buona tutte idea. Tutte le partite in chiaro. Ma tu mettiti nei panni di un adolescente, non va a scuola e c'ha tutte le partite in chiaro, anche se ragazzi, gli muore il nonno. Detto nei giorni che cazzo scorsi, gliene frega. Il vero pericolo, il vero pericolo per il calcio è quello che si ammali un giocatore, un uomo dello staff di una sola squadra in Serie A e poi è tutto finito. Francesco dalla provincia di Perugia. Questo per quello che riguarda il calcio, ma il calcio in questo momento con la gente tappata dentro casa è fondamentale. Importante, non è che possiamo vivere dentro casa solamente con Netflix o con le serie, c'è gente che senza il calcio con gli abbonamenti dai, gratis certo. Per i veneti, per i lombardi. Francesco, provincia di Perugia, vai. No, niente, dopo tutto il discorso della puttana, io volevo fare una domanda seria, se era possibile. Dimmi qual è. Cioè, volevo fare una domanda giornalistica. Qual è? Io da questo, visto che siete giornalisti, qual è? È da stamattina che io sto aspettando di vedere su un telegiornale la notizia che sono sbarcati 20.000, 30.000 soldati americani in Europa. E nessun telegiornale. E secondo ha te, detto e secondo te qual è il significato di questa cosa qua? Sarebbero sbarcati, a parte che non lo so se è vero. Mettiamo no, che sia vero. Lo chiedo a voi. E che cazzo è lo sbarco? Ma in Normandia? A parte che non è vero, ma insomma, ma anche sono sbarcati 30.000 soldati. Mettiamo che sia vero, però. Mettiamo non che ci sono 30.000 soldati. No, ma è vero. Dunque, sono sbarcati. Allora, che cosa significherebbe questo qua col coronavirus? Qual è? Qual è la cosa? Ma innanzitutto, questi sono sbarcati. Ho visto le immagini senza manco una mascherina. Cioè, voglio visto dire, le ha visto le immagini. Dunque, spiegami, allora, che cosa servirebbero questi soldati? Praticamente hanno impedito e impediscono agli italiani e europei di andare in America, insomma negli Stati Uniti. E invece occupano l'Europa, occupano l'Europa. Vengono qui 20.000 e nessun telegiornale. Ma dove le ha viste queste immagini? Ciao Francesco, ciao. A proposito di complottismi, Jean-Paul Vanoli, il nostro quindi esperto di... il nostro bevitore di piscio. Pensa a quelli che sono a cena. Urinoterapia. L'esperto del nulla. Complottista per eccellenza. Pronto? Pronto, Giampaolo? Chi sei? Sono Cruciani, come va? Ah, ciao, bene. Nonostante tutta questa mobilitazione, chiusura, eccetera, sei ancora convinto che sia tutto un complotto? Cioè, ma è che... tutto inventato per fare soldi e spaventare la popolazione mondiale per poterla gestire, togliere le libertà individuali, obbligare al vaccino e speculare finanziariamente su tutto. Che vuol dire spaventare la popolazione mondiale? Spiegami. Semplice. Siccome la gente crede che i virus possono infettare girano nell'aria, la credenza è stata inculcata al popolo gregge ignorante e continuano a credere a quella fesseria lì. Ma chi lo ha fatto? Chi lo avrebbe fatto? Chi sarebbe l'autore? Ma è semplice, ma non hai capito. Sai chi sono le Big Pharma? Le Big Pharma allora sono il grande vecchio che comanda il mondo. Le do un suggerimento. Le do un suggerimento. Anziché dire queste minchiate, si faccia i gargarismi con l'urina. Anziché dire queste minchiate, si faccia i gargarismi con l'urina. Si faccia un bel bicchierino di piscio come il suo solito. L'ha fatto, grazie. Bravo, si vede. Con i gargarismi anche. No, con i gargarismi non ne ho bisogno perché non ho mai problemi alle tonsille. Neanche alle gengive. Ce li ha al cervello, infatti. Tu non sei neanche andato a leggerti la tua Torah. Ti ho dato la citazione, non sai neanche leggere. Insisti con sta cosa della Torah e del piscio. Dai, su, non è possibile. Ti ho mandato il testo del versetto. Vai e avanti. Il libro dove è scritto. Vai avanti a berlo. Ma certo, piacere. Non ho mica bisogno di chiedere il permesso a te o se uno vuole bere il piscio, beva tu piscio. Tu sei un uomo troppo senza ignorante dubbio. Per poter dare senza consigli. Senza dubbio, non però, bevo scusami, piscio. Senza dubbio, non lo bevo, confermo, non lo bevo. E se ne frega, ma il problema è tuo, mica mio. Tu continua a berlo pure. Ma perché? Non ho capito, tu consigli anche il gargarismo col piscio se uno ha problemi alla gola, non credo. Sì, cioè, può essere utile, però non può essere risolve. L'ho detto per finta, perché il problema nasce nell'intestino. Il problema è mentale, no, nella testa, quale intestino? È un'infiammazione nasce nella tua che testa. Risale dal tubo di digerente fino alle mucose buccali, può essere utile, e di conseguenza infiamma la mucosa. Scusi dottore, ma io ho avuto dei problemi intestinali. Ma non è dottore, però attenzione, quello che è. Non sono dottore, anzi non chiamatemi dottore, perché il chiamalo coglione per comodità, è una delle lauree le meno preparate al mondo. Pensate, professore, coglione, professore in urina è più adatto. Senta, signor professore in urina, ma se io mi facessi io sono un giornalista investigativo. Investigativo. Di investigativo. Cosa? Io investigo. Investiga e trova il tuo cervello che è smarrito completamente. Hai capito male che cosa giornalista è investigativo. Alla ricerca del piscio perduto. Alla ricerca del piscio perduto. Ignorante, imbecille. Non sai fare altro che dire stupidaggini. Giornalista investigativo. Ma vaffanculo. Diagnosi schizofrenico. Allora, voglio capire una cosa, le Big Pharma, non ho capito perché avrebbero dovuto loro realizzare questo coronavirus. Cioè, questa è la tua tesi. Il problema è semplice. Il virus non infetta nessuno. Beh, insomma, ma chi l'ha creato questo virus? Allora, il laboratorio, da chi è stato creato? Ma quello li fanno anche il laboratorio. Fare un virus è una cosa così elementare, non hai idea. È facile. Facilissimo. Lei non ne ha mai prodotti, ad esempio, a casa sua, facendo del bricolage, no, non si mette a fare dei virus. Io ho fatto dei riscontri in laboratorio con degli amici biologi, per cui queste cose le conosco. Dunque, l'Italia, mezza Italia, anzi tutta l'Italia terrorizzata, è un falso, cioè una cosa creata ad arte. È vero. Che è terrorizzata, stai dicendo cose improprie ed imprecise. No, è terrorizzata, però è terrorizzata per una balla biologica. Ma non ho capito, tu per esempio quanti anni hai? Il bevitore di piscio. Quanti io anni hai ho tu? 79 anni. Ma non hai paura di questo cazzo di coronavirus a 79 anni? Ma neanche persone, come non ho mai avuto paura di virus in vita mia, perché non sono particelle che infettano. E quindi sono, come hanno fatto a morire 3.000 cinesi, per esempio? Ma perché muoiono delle malattie sottostanti e latenti, non per il virus. Poi ve lo dicono anche in televisione e non lo capite, perché non siete attenti osservatori e il cervello non è abituato a fare sintesi, ragionamenti e riflessioni. Non abbiamo fatto l'urinoterapia, evidentemente. Non c'entra, non è l'urinoterapia che ti permette di avere un cervello funzionale. Però io voglio capire una cosa, caro Jean-Paul, che è questa. Tu sostieni che le Big Pharma siano praticamente quelle che hanno fatto questa grande manipolazione, ma giusto? Non è la Big Pharma in sé come azienda, sono gli azionisti, i titolari delle Big Pharma, che a tavolino concertano tutto quello che va fatto a spese del popolo mondiale. Addirittura, dai, su, ma che è sta la mega manipolazione, dai, su. Ma certo, e non l'avete ancora capito? Dai, venite su. Giù dalla pianta, cari scimmiotti. Ma no, ma non è così, dai, dai. Perché siete ancora dei bambini in pelvi, non avete ancora capito cos'è questo pianeta. E che cos'è? Certo. Non ho capito. Che cos'è questo? È la prigione della galassia, dove arrivano gli spiriti che si incarnano per imparare a discernere il bene dal male. Ah, ok. E chi sarebbero i demoni, scusa, in questo caso? I demoni sono coloro che lo controllano, questa prigione. Il mondo è pieno di schizoidi. Cioè, voglio dire, il fatto che questo qui sia soltanto uno dei tanti che, con problemi psichici, mi pare abbastanza evidente. La cosa drammatica è che parla alla radio. Questa è l'unica cosa drammatica. Per il momento, mica vi chiamate, io non ho bisogno di pubblicità, e su questo lei ha ragione. E la colpa ricade sempre sul Cruciani. Non faccio nessuna pubblicità a me stesso. No, ma infatti lei, guardi, paradossalmente, lei è nella ragione. È un matto coglione che però viene chiamato da Cruciani. Quindi lei... Il matto e coglione te lo tieni a te e te lo tieni per i tuoi figli. Voglio dire, tecnicamente... maleducato che non sei altro. No, ma voglio dire, tecnicamente... Che parlare, no, ma tecnicamente tentando di offendere, ma non voglio offendere, dico tecnicamente, ma sì, no, ma va bene, ma dico da un punto di vista tecnico, lei è un coglione, ma poco male, ne abbiamo tanti in Italia. L'aggravante, ma più, la colpa non è esatto, uno in più, poco ma esatto. Il problema, mi sto rendendo conto sempre di più da 10 anni a questa parte, che il problema non è lei, il problema è Cruciani. Cioè, se Cruciani chiama i coglioni, questo è il risultato. E sai perché? Perché chiama? Per evidenziare quali coglioni ha di fianco. ciao Jean-Paul. Ciao, ciao Giuseppe. Ciao, avanti tutti. Ciao. Ragazzi, abbiamo dato tutto. Abbiamo dato tutto. Devo dire la verità: il numero uno di questa settimana, però, rimane uno. Il signor Silvio Berlusconi, il quale, alla sua età, giustamente, Aliani, è scappato dalla Lombardia. Eh, è scappato dalla Lombardia. Vista la media e se delle n'è vittime. Andato prima in Svizzera e poi in Francia con la ragazzina. Anzi, no, ragazzina, in realtà poteva permettersi anche una più giovane, perché ha 30 l'onorevole. Anni questa qua. Poteva anche andare, ma onorevole, amico mio, onorevole! Sì, onorevole formalmente. Comunque, numero uno è lui. Italiani! Italiani! Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Cruciani che fa sempre la puttanella, perché Cruciani è una puttanella. È una puttanella. Cruciani, una puttanella, sono d'accordo, io sono d'accordo fai, con fai, lei. Fai intendere che sei dalla parte di destra e poi è una piccola quella di destra.